Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo, già lo sapete, è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio sulle frequenze di questa storica Radio Libera Barcellonese 91.4 FM sul litorale catalano, in streaming all over the world dalla web contrabanda.org, e poi potete scaricare dal nostro blog tutti i podcast di Zibaldone, zibaldone.contrabanda.org, facilissimo, e li trovate dall'inizio del 2011 un sacco di puntate, insomma, se siete annoiati, ecco, lì le trovate. E tra qualche giorno, anzi da domani, troverete anche la puntata di quest'oggi, una puntata, questa del 16 giugno 2023, che ha, insomma, è dedicata a un personaggio particolare. Non vi dico chi è, immagino, se avete ascoltato un po' le notizie, letto i giornali, che forse già lo saprete, però insomma, introduciamo questa puntata con una canzone che spiega molto bene di chi e di che cosa parleremo quest'oggi. La canzone è questa. Io sono il boss della coalizione, Cassini, Fini e ultimamente Buttiglione. Io sono il leader, il salvatore, la provvidenza, sono l'unto dal Signore. La standa è mia, il Milan è mio, e la Marini, la Cuccarini, le cucco io. Mentana, Fede, Paolo Liguori, la Fininvest, Publitalia, Mondadori, Vittorio Feltri, i due Vianelli, e quando vediva pure Indro Montanelli. C'ho Panorama, Assicurazioni, Milano 2, Milano 3, sorrisi e canzoni. Villa in Sardegna, palazzi a Milano, un conto, un conto, e Singapore, tre a Lugano. Aerei, navi, banche, libretti, sei elicotteri e 200 doppiopetti. C'ho Tattarella e Fisichella, Marco Pannella e Franco Zeffirella, Clemente Mastella, la sua sorella, Gianfranco Funari e la sua Mortadella, Carlo Rossella del TG1, è mio il TG2, dimmi Mul, Gianfranco Fini, oh yes, Paolo Maldini, oh yes, Letta Lentini, Alessandra Mussolini, Pier Ferdinando Cassini, i due Fiorellini, la Mondaini e Roberto Fermighini. C'ho Via dell'Umiltà, c'ho la segreteria, e Via dell'Anima dell'immortacci mia. Mi manca la Fiat, ma me la piglio, come ho già preso il miglio e scogna miglio, è ancora mio il Presidente del Consiglio. Che si dica, è mio anche mio figlio! Il Padre nostro è solo mio, è cosa nostra, non è vostra, è cosa mia. Di aziende e banche ho fatto il pieno, basta così, domani compro il Mar Tirreno. Ma io compro tutto, dalla alla Z. Ma quanto costa questo cazzo di pianeta? Lo compro io, lo voglio adesso. Poi compro Dio, sarebbe a dir compro me stesso. E vabbè, l'avete riconosciuto, questo era Roberto Benigni, È tutto mio il titolo di questo brano, di cui, insomma, che ci anticipa, che ci introduce la puntata di quest'oggi, e soprattutto Banzo, insomma, la persona che ci accompagnerà ancora una volta in queste due ore. Banzo, bentornato a Zibaldone. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. La persona che ci accompagnerà per queste due ore, che ci ha accompagnato in realtà, se ci vogliamo limitare alla discesa in campo, quasi negli ultimi 30 anni, ma poi ovviamente la sua influenza si estende molto più indietro. Ecco, per noi che siamo nati all'inizio degli anni 80, ecco, anche solo i cartoni animati sui canali Fininvest, stiamo ovviamente parlando di Silvio Berlusconi, perché nonostante il programma stia andando avanti da vari minuti non l'avevamo ancora menzionato, incredibilmente, ma era un segreto di Pulcinella. Sì, vita, morte e miracoli del Caimano, questo è il titolo della puntata dello Zibaldone di quest'oggi, che ovviamente non vuole essere un panegirico né una geografia del Cavaliere Nero di Arcore, ma una puntata appunto che vuole un po' riflettere su appunto la scomparsa di Berlusconi, però in modo ben diverso da quello che abbiamo visto e stiamo ancora vedendo sulle televisioni mainstream e la televisione pubblica italiana, i maggiori media, ossia questa santificazione, beatificazione di Berlusconi, che insomma fa come minimo un po' pensare, no Banzo? E che oltre a far pensare sembra non ammettere repliche, Steven, perché effettivamente ho visto tantissimi commenti, più che ovviamente sui media di massa, su internet, perché lì c'è la Vox Populi oggigiorno, nel quale ogni osservazione critica veniva messa a tacere con diciamo la tiritera del è il lutto, vergogna, rispetto davanti alla morte. E ovviamente la nostra intenzione non è in nessun modo offendere i sentimenti della famiglia, fare vilipendio di cadavere, però effettivamente bisogna dire che quando una persona ricopre incarichi pubblici, la sua azione, diciamo, riguarda la collettività, e noi come esponenti della collettività, come qualsiasi altro cittadino, non abbiamo nessun piedistallo, ecco, abbiamo questa piccola postazione da quale far sentire la nostra voce, ci permettiamo di far notare, cosa che non si può dire, che Berlusconi è stato un personaggio soprattutto negativo dal nostro punto di vista. E devo anche dire, ho notato molto questa ipocrisia assurda da parte di esponenti che dovrebbero stare, ecco, dall'altra parte dello spettro politico, che dicevano cose come: un personaggio che ha cambiato profondamente l'Italia, la qualcosa è innegabile, però dimenticavano di dire che lo ha fatto in peggio, perché i danni culturali, politici che la sua presenza ha causato, non soltanto da quando è entrato in politica, ma soprattutto sono numerosi dal nostro punto di vista. L'Italia è sicuramente un paese peggiore a quello di 30 anni fa, quando Berlusconi appunto entrò in politica all'inizio del 1994. Ne parleremo quest'oggi con due ospiti. Innanzitutto Ramon Mantovani, che è stato per tanti anni deputato di Rifondazione Comunista, proprio nei momenti in cui, insomma, gli anni d'oro del berlusconismo, tra il 92 e il 2008, e poi con Emanuele Felice, economista, saggista, professore alla IULM, che è stato varie volte nostro ospite, e ci accompagnerà a Banzo in questa puntata la musica, ecco, come sempre in Zibaldone, musica che però, come abbiamo sentito anche nel brano di Roberto Benigni, ha a che fare in qualche modo con questa vita, morte, miracoli del Caimano, del Cavaliere Nero, no? Sì, sicuramente, perché vabbè, diciamo che sarà più qualcosa intorno a Berlusconi, perché se dobbiamo andare a cercare produzioni musicali più dirette, abbiamo gli inni di partito, che sono abbastanza nefasti, anche se più avanti avremo una piccola sorpresa. Però ecco, appunto, ci sono stati tanti artisti, non poteva essere diversamente, che hanno voluto riflettere sulle trasformazioni culturali che il berlusconismo ha imposto con la forza nel nostro paese, o forse non so, con la forza, a un certo punto andava bene a moltissima gente, ma ci siamo capiti. Comunque sì, una selezione musicale che cerca di affrontare alcuni aspetti della problematica figura di Berlusconi dallo spettro dell'arte, che dovrebbe essere, insomma, libera, ecco, sempre. Eh sì, e infatti proprio adesso, prima di ascoltare, chiacchierare con Ramon Mantovani, ci andiamo ad ascoltare un brano, forse uno dei più famosi, del tuo amato Franco Battiato, Innere Sauge. Presentalo tu, Banzo, va. Sì, Innere Sauge è probabilmente, occhio interiore in tedesco, è probabilmente l'ultimo capolavoro della produzione di Battiato, uscito come singolo. Non è stato pubblicato su album nel 2009, mi sembra, e sostanzialmente è una canzone, vabbè, come sempre quando si parla di Battiato, copre anche molti altri temi, però ci sono dei riferimenti chiarissimi alla politica che poi sarebbe stata definita del bunga bunga, ecco, c'è una frase che è inequivocabile in questo senso. E Battiato perde brevemente l'aplomb che lo contraddistingue, questa figura spirituale, cioè, perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti, ecco, sì. Ma anche se forse rincoglionito non era la parola più giusta per Berlusconi, non in quel momento, almeno non nel 2009. Ce l'andiamo ad ascoltare e poi con Ramona Mantovani cominciamo questa puntata e cominciamo a conoscere gli ospiti di questa puntata di Zibaldone. Come un branco di lupi che scende dagli alti piani ululando, o uno sciame di api accanite divoratrici di petali odoranti, precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti? Cosa possono le leggi dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori se non avessero moneta sonante da gettare come ami tra la gente? La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Innere Sauge, das Innere Auge. Con le palpebre si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Innere sauge, das innere auge. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. La linea orizzontale innere ci spinge verso la materia, das innere auge. Quella verticale verso lo spirito. Ma quando ritorno in me, sulla mia via, a leggere e studiare, ascoltando i grandi del passato, mi basta una sonata di Corelli perché mi meravigli del creato. Abbiamo ora in collegamento telefonico con noi Ramon Mantovani, a cui do subito il benvenuto. È un grande piacere averti finalmente con noi a Zibaldone. Ramon, come stai? Piacere è mio e molte grazie per l'invito. Ramon, molti di voi lo sanno e sicuramente lo ricordano, è stato deputato per tanti anni al Parlamento italiano con Rifondazione Comunista tra il 1992 e il 2008 e ancora oggi continua a essere in direzione di Rifondazione Comunista. Ramon, una puntata che, come ti avevamo annunciato, è dedicata a Berlusconi, dedicata tra virgolette vita, morte e miracoli del Caimano. Insomma, tu lo hai conosciuto bene, nel senso perché hai condiviso molti anni nel Parlamento, nella politica italiana, in cui Berlusconi era davvero protagonista, e comincerei proprio domandandoti qualcosa che riguarda questi ultimi giorni, il processo di beatificazione che abbiamo visto, no, trasmesso a reti unificate perfino con il funerale. Ecco, una tua riflessione su questa questione per cominciare. Ma i funerali di Stato per gli ex presidenti sono un obbligo di legge. Mentre invece la proclamazione del lutto nazionale, io penso che sia stato un gravissimo errore, è una prepotenza da parte del governo che fa un'operazione di riscrittura della storia e che naturalmente pensa che il popolo italiano debba mettersi in lutto per un signore che perlomeno ha rappresentato solo una parte minoritaria del paese e che ha avuto vicende personali e giudiziarie che dovrebbero averlo estromesso da questo tipo di onori. E l'altra questione di fondo è, in questo processo, diciamo così, di beatificazione, è anche il fatto che le voci che ricordano criticamente, appunto, no, come quello che ha fatto Berlusconi in politica, non sono state molte in questi giorni. Non so qual è anche la tua percezione, almeno parlo dei media mainstream. Sì, ma i media mainstream oramai sono nelle mani, dal punto di vista della proprietà, o addirittura direttamente della famiglia Berlusconi, o di gruppi finanziari e industriali che sono stati dalla parte di Berlusconi, anche se non l'hanno mai detto esplicitamente, perché Berlusconi ha rappresentato, e dal suo punto di vista molto bene, gli interessi esattamente delle multinazionali e dei grandi gruppi finanziari speculativi e così via. Ascolta, se dovessi così riassumere qual è il lascito di Berlusconi, tu cosa sottolineeresti? Si sono sentite tante cose, ovviamente, insomma, però ecco. No, ma ci sono anche cose che gli sono state attribuite che non sono colpa sua. Ad esempio? Per essere onesto politicamente, io non posso dire che sia stato Berlusconi ad aver introdotto il populismo personalista in Italia, cioè lui l'ha fatto, ma c'è qualcuno che gli ha fatto un'autostrada per poterlo fare, perché tutti dimenticano che Berlusconi si presentò alle elezioni perché era stata cambiata la legge elettorale da proporzionale a maggioritaria e che lui riuscì a fare il capolavoro di fare un'alleanza in mezza Italia col Movimento Sociale Italiano, sdoganando i fascisti, cosa che in Italia non aveva fatto mai nessuno, e che nell'altra mezza Italia sdoganando i secessionisti, allora ultra secessionisti della Lega Nord. E questo gli permise di vincere delle elezioni con il 40, non mi ricordo, ma adesso posso controllarlo perché mi sono tirato fuori i risultati, con il 42% prese la stragrande, prese una buona maggioranza di seggi sia alla Camera che al Senato, molto più del 50%, mentre se tutti gli altri si fossero stati rappresentati con il sistema proporzionale che c'era vigente prima, ammesso che Berlusconi avesse fatto questo salto nella politica, non avrebbe avuto la maggioranza e non avrebbe potuto formare il governo. Le grandi responsabilità di Segni, insomma, diciamo. No, Segni propose una cosa che avrebbe raccolto sì e no 10.000 firme. Fu il Partito Democratico di Sinistra a raccogliere le firme per quella proposta infame, purtroppo. Ascolta, purtroppo. Rimanendo sull'ascito di Berlusconi, no? Ci hai detto questa cosa giustamente per puntualizzare la questione del populismo, ma tornando sull'ascito, cosa segnaleresti? Ma io segnalerei il fatto che nel ventennio nel quale Berlusconi è stato protagonista della vita politica, anche se non sempre è stato al governo, il suo stile si è imposto, la personalizzazione della politica è diventata il pane quotidiano, tanto che oggi alle ultime elezioni ci sono solo partiti personali, praticamente sono quasi tutti partiti personali, la gente non conosce neanche bene i nomi, le sigle, conosce solo le persone. L'altro aspetto è che lui ha trasformato il dibattito politico attraverso le sue reti televisive e poi a seguito anche la RAI ha accettato questo schema in un dibattito tipo da stadio, cioè prima arrivò Biscardi che faceva la domenica sportiva facendo litigare la gente, alzando la audience perché la gente si scannava, si insultava, e c'era casino, insomma, e questo è passato alla politica e la politica è diventata nei talk show questa cosa qua, e questo non è un lascito, è una costruzione ideologica e massmediatica molto raffinata da chi l'ha fatta e che poi si è tradotta in questa volgarità oscena che c'è ancora oggi nei nostri giorni nelle trasmissioni chiamate così talk show. Questo è il principale lascito, aver trasformato la politica in tifo da stadio. E del resto il Parlamento sembrava anche lì di essere in due curve, perché io fui eletto nel primo Parlamento con la legge proporzionale. E il Parlamento era diventato due curve, insomma. Il governo aveva la maggioranza dei seggi, quindi qualsiasi cosa facesse, i suoi deputati dovevano obbedire, la funzione parlamentare che per la Costituzione è molto più importante di quella del governo venne svilita e il Parlamento si trasformò in due curve da stadio che si litigavano, si facevano ostruzionismo a vicenda continuamente. Non per caso siamo passati dall'89% degli elettori del sistema proporzionale al 62-63% delle ultime elezioni dell'anno scorso. Abbiamo perso circa il 30% degli elettori e questa sarebbe la nuova democrazia. Quindi, riprendendo il discorso che stavi facendo, Ramon, possiamo dire che anche se non ha creato da solo ovviamente tutta questa dinamica, Berlusconi ne è stato il miglior interprete possibile, se non altro l'uomo giusto al posto giusto. Senza ombra di dubbio, del resto i suoi avversari del centro-sinistra, sia quando noi li abbiamo appoggiati, sia quando noi li abbiamo osteggiati, erano pallidi nei suoi confronti ed erano anche impossibilitati dalla storia e dal retroterra culturale dei partiti che li sostenevano a essere così spregiudicati e a comprare e a svendere deputati sul mercato come ha fatto Berlusconi. Questo per un leader del centro-sinistra, diciamo così, era impossibile da fare. Mentre per il signor Berlusconi era possibile, per molti italiani che negli anni 80 e negli anni 90 hanno conosciuto la dittatura del mercato, della finanza, della speculazione e hanno imparato che per vivere bisogna competere con il vicino di casa, con il compagno di lavoro, con gli abitanti che vengono da un altro paese, per loro, per molti di questi italiani è diventato normale che la società sia una giungla nella quale ovviamente emergono personaggi alla Berlusconi. Ascolta, Ramon, collegato con questo, tu come ti sei spiegato durante tutti questi anni il fatto che la società italiana, no, e le immagini spesso tornano al lungo 68 e così via, insomma, un attivismo molto presente nella società, una società matura, una società culturalmente molto... molto conosciuta anche all'estero, insomma, gli anni d'oro della Prima Repubblica, buttiamola così. Ecco, che questa società a partire dagli anni 90 abbia accettato la qualunque, appunto... Ma questo è un processo lunghissimo che ha portato l'Italia a questo lido, ma che comincia, secondo me, con una cosa che sembra non c'entrare niente, per la maggioranza della popolazione assolutamente sconosciuta, cioè comincia con la denuncia degli accordi di Bretton Woods. La lira comincia a veleggiare nel mercato internazionale delle valute senza limiti, mentre prima c'erano, e così succede che la lira, nel giro di 10 anni, dimezza il suo valore in confronto al dollaro, che diventa da 635 lire, il dollaro vale 1.300 lire, e nel 15 anni dopo valeva 1.900 lire. Per un paese che non ha materie prime, che le deve comprare in dollari e che è un paese di grande industria trasformatrice, questo ha voluto dire la chiusura delle fabbriche, la delocalizzazione e la crescita del capitale speculativo, di cui Berlusconi è stato il primo e il più grande interprete, insieme a Ligresti, a Cabassi, tutti personaggi discussi anche per vicende, come dire, giudiziarie, hanno trasformato Milano, dove io vivevo e conoscevo molto bene, hanno trasformato Milano in quella che viene conosciuta come la Milano da bere, perché le grandi potenze della Milano di allora, cioè la borghesia che era proprietaria di industrie dove lavoravano decine di migliaia di lavoratori, se non molti di più, e il proletariato, i lavoratori, anche se si combattevano, avevano una stessa idea di società. Poi è arrivata l'idea di società che è la Milano da bere, la Milano delle apparenze, la Milano degli yuppie, la Milano dei soldi facili, del fare i soldi con i soldi, la Milano della corruzione, la Milano della cocaina, la Milano, insomma, quella Milano lì negli anni 80 è cresciuta e ha cambiato come un calzino l'identità della città. Questo è un lavoro che hanno fatto i signori Berlusconi, Ligresti, Cabassi e molti altri che hanno trionfato in quegli anni e hanno avuto un partito che si è schierato dalla loro parte e è diventato il migliore interprete dei loro interessi e si chiamava Partito Socialista Italiano. Ascolta, Ramon, parlando invece della sinistra, no? Centro-sinistra, insomma, durante 20 anni sembrava quasi impossibile riuscire a liberarsi di Berlusconi, oltre che del berlusconismo. Quali sono stati gli errori, le incapacità della sinistra tra il 93-94 e almeno, guarda, insomma, il 2011? Ovviamente io ho una posizione molto di parte, perché io sono stato in Parlamento quando abbiamo fatto gli accordi con il centro-sinistra e quando abbiamo dovuto rompere questi accordi perché non si rispettava nulla di quello che era stato scritto e firmato e proclamato in Parlamento. Faccio un esempio: noi chiedemmo, tanto per dire che avevamo qualche idea che aveva un valore, chiedemmo al governo Prodi di fare una cosa, di fare un programma di 20 anni blindandolo, facendo leggi blindate che chiunque avesse governato sarebbe andato avanti, per mettere in sicurezza il territorio dalle alluvioni e dai terremoti, e che questo avrebbe comportato l'assunzione di 20 o 30 mila ingegneri, giovani laureati, tecnici. Perché? Perché l'Italia aveva bisogno di questo e solo lo Stato lo può fare, non lo faranno certamente gli imprenditori edili. E però ci sputarono in faccia quando noi dicemmo questo. E purtroppo, faccio un altro esempio, come si fa a non vedere che la gente di sinistra che votava le forze di sinistra è rimasta delusa? Quando Berlusconi vinse le elezioni nel 96, la prima cosa che fece con il suo ministro del tesoro, 94, scusami, con il suo ministro del tesoro Dini, fu una controriforma delle pensioni, che è stata la prima in Europa di quella portata. La Lega, che aveva un grande elettorato di pensionati e di lavoratori del nord, che cosa fece? Fece una crisi di governo. E che cosa fece il centrosinistra? Accettò che Dini, che era il ministro che aveva fatto la riforma, entrasse nel centrosinistra e governò fino alla fine della legge per un altro anno, facendo la stessa riforma delle pensioni che aveva fatto Berlusconi. Basta andare a vedere quanta gente si astenne da una lezione con l'altra per vedere chi è che si era incazzato per questo tipo di logica. E il centrosinistra ha sempre fatto questo, ha fatto le cose che Berlusconi non poteva fare con la pace sociale, perché i sindacati gliel'hanno permesso non facendo scioperi che invece avrebbero dovuto essere fatti, come si sono fatti in Francia, in Spagna e in tutti gli altri paesi che si sono ribellati i lavoratori a queste riforme pensionistiche. Ascolta, un'altra delle grandi questioni che si sono ripetute sempre in questi anni è quella del conflitto di interessi. Ecco, come la vedi tu su questo? Perché ovviamente è una questione che fin dal 94 tornava fuori di volta in volta e con una ragion d'essere. Sì, ma il conflitto di interessi è uno scandalo nazionale, però non è che bisogna essere così col palato così delicato, perché anche i presidenti socialisti spagnoli che appena finito di essere presidenti del governo sono andati nei consigli d'amministrazione delle società energetiche private, certo non è un conflitto di interessi conclamato come quello di essere contemporaneamente primo ministro e proprietario di un'impresa, di un monopolio televisivo che gli era stato garantito con una legge ad hoc da parte dei repubblicani e dei socialisti. Beh, il conflitto di interessi, finché c'è la società di mercato e c'è il capitalismo, quello di oggi soprattutto finanziario, è una costante di tutti i governi, in modo più esplicito, in modo meno esplicito. Berlusconi l'ha fatto in modo arrogante, in modo esplicito. Possiamo dire, Ramon, che Berlusconi ha vinto la battaglia per l'egemonia culturale anche perché non è stato mai risolto il conflitto di interessi, cioè avendo tutte quelle armi a disposizione ovviamente aveva più elementi per riuscire a imporre la sua narrazione. Non c'è dubbio, io sono d'accordo su questo, tuttavia io penso che l'egemonia sia una cosa più complessa e che gran parte di quell'egemonia è dovuta alla modificazione sociale che c'è stata in Italia. Se uno è un lavoratore, c'è un forte sindacato, il sindacato gli conquista molte cose e il Parlamento, anche i partiti di opposizione come il Partito Comunista e anche il Partito Socialista quando lo era di opposizione, gli conquistavano molte cose perché potevano allearsi con pezzi della Democrazia Cristiana legati alla CISL, per fare un esempio, e potevano anche ribaltare un governo e che c'era un governo un mese dopo, ma però si rispondeva di sì agli scioperi dei lavoratori. E beh, questo, quando è finito questo, quegli lavoratori si sono sentiti soli e in competizione con altri, tanto che nel lessico normale è diventato un fatto normale dire che le aziende devono essere competitive e che i lavoratori devono sacrifici per la propria azienda perché possa competere con altre, cioè con altri lavoratori. È stata una sconfitta culturale, politica, sociale di tutte le conquiste della sinistra, non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Certo, che poi si somma ovviamente alla rivoluzione, diciamo, televisiva di cui parlavamo. Senza dubbio, ma quella... Sì. Quella non ne parlo perché la do per scontata, tutti hanno visto che cosa ha fatto Mediaset e quali modelli culturali ha proposto. Sì. Facciamo una piccola pausa musicale, Ramone, e poi torniamo insieme a te. Andiamo ad ascoltarci questo brano di Sergio Messina, Qualcosa di perverso. Quello che si vede nei loro show è tutto reale. Lei è tante cose. Le capita mai di sentirsi un uomo importante? Io non le rispondo. Perché lei questa mattina ha affermato che io non rispondo alle domande. Ha qualcosa di perverso che tu non hai. Per una volta mi consenta di darle ragione. Allucinante! La mia verità. 100.000! Ciò di cui il paese ha bisogno. La verità di Silvio Berlusconi. Sono 200.000! Ciò di cui il paese ha bisogno. Giuro sulla vita dei miei 5 figli che io non ero a conoscenza dei fatti che invece si vorrebbe fossero stati da me decisi. Non mi dimetto. Ha qualcosa di perverso che tu non hai. Ha una sua filosofia. Ed è questo che lo rende così pericoloso. Ha qualcosa di perverso che tu non hai. Ha una sua filosofia. Ed è questo che lo rende così pericoloso. Questo si chiama tradimento, sì! In modo chiaro, coraggio! Palese, in linguaggio corrente. Chi fa questo, Gladio, è un traditore. Ha una sua filosofia. E io vi dico che un uomo con quel popò di fronte spaziosa non può aver torto, ma ha sempre ragione. Sei calvo? per una volta mi consenta di darle ragione. Hanno detto che ho preso un sacco di soldi dalla televisione, al canale 2 e canale 3. Non è vero. Hanno detto che mi hanno dato i soldi il messaggero. Non è vero. Un po' più di fantasia ci vuole. Giuro sulla vita dei miei 5 figli che io non ero a conoscenza dei fatti che invece si vorrebbe fossero stati da me decisi. Paese ha bisogno. C'è la verità, quella di Berlusconi. Ciò di cui il paese ha bisogno. Ho deciso di vendere le mie aziende. Ciò di cui il paese ha bisogno. Chi mangia sano trova la natura. Ciò di cui il paese ha bisogno. Anche a Trento. Assaggiare con prudenza. Ciò di cui il paese ha bisogno. Interrogato da Lema nel pomeriggio, tocca a Duchetto. Ciò di cui il paese ha bisogno. Berlusconi ha ritrovato il suo buon umore. Ciò di cui il paese ha bisogno. Dovrò fare un provino, ma credo di essere proprio adatto. Ciò di cui il paese ha bisogno. Mi permetti? Ma che sta? Ciò di cui il paese... Ma non c'hai una casa? Vattene a casa. E questo era Sergio Messina, Qualcosa di perverso. Banzo, lascio spiegare a te, ai nostri ascoltatori, questo brano. Beh, in realtà Sergio Messina è la mente dietro una delle due sigle che ha firmato questo brano, che era Tecnovod e Radio Gladio. Sergio Messina era l'alter ego, cioè era la persona dietro l'alter ego Radio Gladio, e questo brano, appunto, insomma, avete sentito, era sostanzialmente una rappresentazione, una specie di galleria dell'orrore nel quale veniva rappresentato il personaggio Berlusconi attraverso una serie di citazioni dirette tramite la tecnica quasi terroristica, fra virgolette, del cut-up. Torniamo con Ramon Mantovani, che ci sta accompagnando in questa prima parte di Zibaldone. Ramon, prima abbiamo parlato di conflitto di interessi. L'altra grande questione che l'ingresso di Berlusconi in politica ha posto in primo piano, e che è durata durante tutti, insomma, i 20 anni in cui ha occupato in vari momenti il governo e che continua tuttora, è quella della giustizia. Insomma, qui si unisce ovviamente a uno snodo cruciale della storia italiana come quello di Tangentopoli, durante il quale Berlusconi decide di scendere in campo, utilizzando la sua terminologia, e che poi non è mai stato, diciamo, risolto, se una risoluzione si può trovare. Ecco, mi piacerebbe sentire la tua opinione al riguardo. Beh, ma lì si tratta di potenza, si tratta di potere. Chi ha il potere massmediatico ha un potere finanziario e anche bancario, perché Berlusconi è stato anche finanziere e banchiere, e ha un potere di questa portata, e riesce a piegare anche gli altri poteri dello Stato, che per la Costituzione dovrebbero essere indipendenti. La magistratura per molti anni ha fatto, si è voltata dall'altra parte. Quando ha cominciato a fare quello che doveva fare, o che avrebbe dovuto fare già da molto tempo prima, si sono interposte le posizioni del governo di Berlusconi, apparati dello Stato che hanno boicottato queste indagini della magistratura, e poi c'è un sistema massmediatico che ha sempre minimizzato i reati commessi da Berlusconi, a cominciare dalle sue relazioni sospette con la mafia, perché i capitali con i quali Berlusconi ha cominciato a fare l'imprenditore a Milano, lo sappiamo tutti da dove vengono, e sappiamo tutti dell'Utri chi è, e sappiamo tutti quella storia lì. Ma questa è come la mafia, è potente in Italia, non si scherza. Ascolta, un'altra questione importante è quella della politica internazionale. Sì. Berlusconi ha avuto posizioni che ovviamente con il senno di poi sono state criticate. Penso, no, a quando rivendicava il Pratica di Mare 2003, Bush e appunto Putin, ma anche tante altre posizioni. Ecco, su questo invece tu cosa ne pensi? E non solo su Putin, parlo in generale, delle relazioni internazionali, della politica dei tempi di Berlusconi al governo. Guarda, ci sono cose che vengono addebitate a Berlusconi che invece io penso che non gli vadano addebitate. Per esempio il fatto che l'Italia, paese colonialista, per la prima volta chieda scusa alla Libia per i crimini contro l'umanità commesse dall'esercito italiano, che ha usato i gas nervini in molti altri paesi colonizzati dall'Italia, è una cosa positiva. Gli viene addebitato come un fatto negativo. Gli viene addebitato per aver avuto rapporti personali con Gheddafi, oppure gli si addebita di aver avuto rapporti personali con Putin e così via. Io non giudico la politica internazionale dal fatto che ci siano questi rapporti personali che lui evidenziava, perché essendo uno sbruffone e anche una persona poco colta e molto volgare, non faceva altro che mettere in evidenza queste cose. Ma lui ha commesso dei crimini politici, perché la guerra contro l'Iraq, che come si è visto e scoperto, era una guerra poggiata su un obiettivo falso, perché non c'erano le armi di distruzione di massa, nella quale è stato coinvolto e nel quale è stato coinvolto il nostro paese, guerra per la quale sono morti soldati italiani, è stato un crimine politico che però non siamo riusciti, nessuno, sebbene ci sia stato un grande movimento pacifista, a contrastare. Berlusconi, per il resto, è sempre stato una figura di secondo piano e mediocre nella politica internazionale. Guarda, posso dirti una cosa personale: io una volta in un dibattito alla Camera, presente Berlusconi, dissi a Frattini, che era ministro degli esteri: per favore, signor ministro, lei che è il capo della diplomazia italiana, spieghi al suo presidente del Consiglio che quando parla con altri capi di Stato e di governo non deve dire che dà consigli, perché i capi di Stato, quando parlano fra di loro, esprimono posizioni, fanno proposte, ma non danno i consigli gli uni agli altri, perché i consigli li danno i consiglieri, e cioè persone retribuite per fare i consiglieri, o comunque, anche se non retribuite, messe in secondo piano. E lui mette il nostro paese come un paese di serie B quando dice di dare consigli ad altri. Eppure questa cosa, anche questa, è passata in cavalleria. Nessun giornalista ne ha mai parlato di questo aspetto della politica estera che un paese dignitoso non dovrebbe fare mai. E un'altra questione che credo importante riguarda il suo partito, Forza Italia. Prima ne abbiamo accennato, però Forza Italia, diciamo, ha segnato un prima e un dopo, no? La prima parlavi della personalizzazione della politica, un partito personale in tutto e per tutto, un partito azienda. Sì, ma Forza Italia non è un partito, non è quel partito previsto dalla Costituzione italiana, come non lo sono quasi, non lo è quasi nessuno di quelli che oggi siedono in Parlamento. Sono partiti o personali o sono grandi comitati elettorali all'interno dei quali si fanno faide a non finire per vedere chi è che sarà il candidato, chi vincerà le primarie, tutta una competizione interna senza una base ideologica e programmatica forte, seria, discussa e scelta democraticamente dagli iscritti, che in realtà gli iscritti sono scemati, sono spariti e sono rimasti gli apparati e di quelli che pensano di essere in carriera perché sono consiglieri di una circoscrizione e vogliono diventare comunali, regionali e possibilmente deputati e possibilmente ministri o assessori e così via. Sono decine di migliaia di persone che hanno questa logica e questa idea della politica, e sono quelle che compongono i partiti attuali nella stragrande maggioranza. Non parlo di tutti, ovviamente, parlo di quelli che militano, sì, non di quelli che hanno la tessera o che semplicemente votano. Sì. Questo è un modello americano, sì, è il modello degli Stati Uniti d'America, che Berlusconi ha copiato pari pari. Qual è lo scenario però adesso che non esiste più l'alternativa praticamente, cioè non esistono più i partiti del vecchio modello praticamente, cioè l'unica opzione forse è rimanere appiattiti su questo modello americano? Non so come la vedi. Guarda, io purtroppo sono uno sconfitto. Noi lottiamo da molti anni perché si ritorni a proporzionale. Noi lottiamo e sappiamo anche che una volta tornati a proporzionale ci vogliono molti anni prima che poi si affermi un modello politico e istituzionale diverso, perché la gente ormai si è abituata così, così come è adesso la politica, è come negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti quanti votano? Il 40-45%, perché la stragrande maggioranza della gente non gli cambia una virgola nella loro vita se vince l'uno o vince l'altro presidente. Lo stesso sta succedendo in Italia. con addirittura dei rovesciamenti di parte, perché c'è molta parte del popolo che una volta votava a sinistra che ha detto adesso vota la destra perché della sinistra non si fida più, già che tutte le volte che la cosiddetta, che non lo è, sinistra è stata al governo, ha fatto la precarizzazione del lavoro, le controriforme delle pensioni, i tagli alla spesa pubblica, le privatizzazioni di tutte le di tutti i servizi che si erogano nei comuni, insomma, evidentemente c'è un disastro e dai disastri si esce, come dire, in molto tempo. Bisogna che forse ancora non si è toccato il fondo del barile, però io vedo che nelle elezioni comunali vota il 50% e al ballottaggio il 35%, e che alle ultime politiche ha votato il 62% degli elettori. Possibile che non ci sia nessuno con un minimo di sale in zucca che capisca che questa non è democrazia? Ascolta, l'ultima domanda che ti volevo fare, Ramon, riguarda il futuro. Si sta parlando molto in questo periodo del futuro di Forza Italia, insomma tutti dicono Forza Italia è già morta, ecco, però bisognerà capire un po' chi si prende quell'8% e soprattutto che tipo di scenario si crea, perché sparendo Forza Italia anche, diciamo, ufficialmente sparisce quello che veniva considerato il centrodestra o il riferimento dei popolari europei in Italia, ecco, si possono dibattere molto queste cose. Tu cosa ne pensi riguardo ai prossimi mesi e in vista anche delle elezioni europee? Io penso che Fratelli d'Italia e la Lega faranno una virata finta verso il centro, moderata, come ha già cominciato a fare, soprattutto Fratelli d'Italia che ha la presidenza del governo e che prima, durante la campagna elettorale, ha detto delle cose, adesso fa il contrario. Fa il contrario sui diktat dell'Unione Europea, fa il contrario sulla guerra, fa il contrario su quasi tutto quello che aveva detto. E sono disponibili loro ad andare avanti su questa svolta, mantenendo da una parte l'essenza reazionaria della loro natura politica, che si vedrà molto bene sulle questioni dell'immigrazione, sui diritti civili delle donne, degli omosessuali e così via. Ma dall'altra parte diventeranno affidabili per i potentati economici che vogliono conservare i loro privilegi, che sono quelli del mercato assoluto e totalizzante che c'è. Quindi io sono pessimista da questo punto di vista. Quello che ci vorrebbe è dall'altra parte una rivolta come quella che è successa in Francia, per esempio, che ha terremotato il sistema politico e che ha fatto emergere delle forze che un po' coerentemente con i sindacati francesi, che gli scioperi li fanno e non ne parlano ne fanno uno ogni 10 anni finto, e in Francia li fanno e le mobilitazioni sociali ci sono, come ci sono state in Spagna con il movimento degli indignati, e queste cose possono produrre delle trasformazioni. Spero che una delle trasformazioni, che non so quando, ma lentamente venga alla luce, venga all'ordine del giorno, sia quella di cambiare il sistema elettorale, il sistema istituzionale, sperando che nel frattempo Fratelli d'Italia non realizzi il suo programma di passare direttamente al premierato diretto, eletto direttamente dal popolo, che allora vuol dire che diventa un'altra pietra tombale sulla democrazia politica italiana. Sì. Vedremo, ne riparleremo. Ramon, grazie davvero di essere stato con noi. Grazie a voi e buon lavoro. Ramon Mantovani è stato deputato di Rifondazione Comunista per molti anni, tra gli anni 90 e i primi 2000, continua ad essere in direzione di Rifondazione Comunista. Salvaguardare il gruppo Mariposa, poi lo chiamo Forza Musica e ci faccio quelle leggi tipo che soltanto il gruppo Mariposa ed i suoi amici hanno: grandi sovvenzioni di petrolio, di cemento, di tabacco, di mafia e di farmacia. We'll be right back. paese dei balocchi. Lifting. Non lo fanno sotto gli occhi, ma lo fanno nell'uccello, così che come asinello sentirete del disagio quando ve lo butto in culo dal palazzo dell'industria culturale. Meno male che ho fondato Forza Musica. D'altronde chi non risica non rosica, continua a pasturarvi col gran fondo come polline e pollaio. Sono i Mariposa, Forza Musica, Banzo, una canzone di qualche anno fa che insomma gioca un po' con la figura di Berlusconi e soprattutto dal titolo con il suo partito Forza Italia. 2005, sì, vabbè, gioca, però gioca molto duro, Steven, perché sì, avete sì, sentito il testo. Beh, io penso che la scelta di parole così dure fosse assolutamente volontaria, proprio una scelta espressiva non per diciamo risultare volgari, ma per esprimere la gravità della situazione nella quale si trovava l'Italia. E stiamo parlando del 2005, nel frattempo sono passati 18 anni e possibilmente la situazione è peggiorata abbastanza, sicuramente. Sì, sì, sì, sono d'accordo con te. 2005, ricordiamo, stava per terminare il secondo governo Berlusconi, stava per finire quella legislatura in cui Berlusconi insomma arrivò l'unica volta praticamente in Italia alla fine del mandato, senza insomma c'è stato un rimpasto nel governo, però insomma poca cosa. E tra l'altro si stava cercando di portare avanti una riforma della Costituzione che fu poi bocciata l'anno successivo, nel 2006, in referendum, anno in cui vinse l'Unione di Prodi, governo che poi durò solo un paio d'anni. Noi, come sapete, stiamo insomma accompagnando le chiacchierate che abbiamo con i nostri ospiti su Vita, Morte e Miracoli del Caimano con della musica. E dopo appunto Benigni, Battiato, i Mariposa, ecco Banzo, adesso invece andiamo a trovare una cosa ancora più particolare, se vogliamo. Sì, esatto, perché c'è una storia curiosa dietro, anche una ricerca che mi ha portato su lidi abbastanza inattesi. Io non vi annuncerei la canzone, vi spieghiamo dopo di chi si tratta. La melodia vi suonerà familiare, ma non del tutto, e vi spiegheremo perché. Andiamocela a sentire allora, questo brano che vi diciamo solo è degli anni 70, ecco, non dico nient'altro. Che state sentendo si titola Ibolele 1974. Banzo, l'autore è Fabio Frizzi, da non confondere con il fratello. Sì, il fratello Fabrizio Frizzi, noto presentatore televisivo, purtroppo già scomparso da qualche anno. Fabio Frizzi è stato storico compositore di colonne sonore, noto forse di più per le colonne sonore di film horror di Lucio Fulci, ma bellissime, ma ha una produzione immensa, e questo brano I primi Fantozzi tra, ma fra gli altri, beh, comunque una discografia molto estesa, e questo brano è tratto da un film di genere esotico erotico del 1974 che si intitolava Amore Libero, Free Love, con protagonista Laura Jemser, poi nota come interprete nel filone dei film di Emmanuel Nera, ecco, sempre per gli appassionati del genere stracult, diciamo. Però ecco, perché abbiamo trasmesso questa canzone. Bravo, la domanda sorge spontanea, spiegamolo un po' ai nostri ascoltatori. Allora, la melodia è familiare, forse vi ricorda qualcosa, e vabbè, scopro le carte. Sostanzialmente è partito tutto da una serie di riferimenti all'inno di Forza Italia, È tempo di crederci, quello famosissimo, che secondo varie cose che ho letto in rete sarebbe stato un plagio di altre canzoni. E io non credo molto a questa cosa dei plagi, credo più alle somiglianze involontarie, eccetera. Comunque, questo inno di Forza Italia è stato composto da Renato Serio nel 93-94 e dunque ho trovato riferimenti secondo i quali, questo lo dice direttamente Wikipedia, c'è una somiglianza che è stata riscontrata da molti con una marcia del compositore britannico Edward Elgar, e poi abbiamo anche una somiglianza con un brano intitolato This is the Moment da un musical su Dr. Jekyll e Mr. Hyde, questo l'ho sentito, è molto simile in effetti. E poi, finalmente arrivo, io ricordavo dagli anni 90 di aver letto che l'inno di Forza Italia era in realtà il plagio di una canzone finlandese, tranquilli arriviamo, e tramite le mie ricerche sono riuscito a risalire alla canzone che è Mombasa, quindi tematica africana anche qui, della cantante Taiska, ma, e finalmente siamo all'ultimo colpo di scena, ho scoperto che questo brano era in realtà una cover del brano di Fabio Frizzi, Vole Lei, che vi abbiamo appena fatto sentire. Quindi io non credo che le due canzoni siano uguali, però la storia mi ha colpito e mi ha affascinato vedere tutti questi riferimenti a canzoni uguali o presuntamente uguali all'inno di Forza Italia, e secondo me siamo un po' dalle parti del folklore, della leggenda urbana. Pensa che addirittura ho trovato un forum nel quale vengono tracciati altri paralleli, per esempio con un brano di Fiorella Mannoia, letteralmente per due secondi che si assomigliano, dopo sono andato a sentire. Ecco, nel caso di Frizzi la melodia è abbastanza simile, però io non credo che sia uguale, e comunque il brano di Fabio Frizzi è molto più bello dell'inno di Forza Italia, quindi abbiamo preferito farvi sentire questo. Assolutamente, tra l'altro brano di Forza Italia, se non erro Banzo, il testo era stato scritto dallo stesso Silvio Berlusconi. Ma è probabile, perché comunque Silvio Berlusconi ha avuto altre esperienze come paroliere e addirittura in altre lingue, perché Silvio Berlusconi, beh, insomma, è risaputo, è un simbolo negativo dal nostro punto di vista di Milano. Però, ecco, l'altra lingua che ha utilizzato non è il milanese, bensì il napoletano, Steven, perché ha sempre dichiarato di essere un grande fan della musica napoletana. Sì, sì. Tra l'altro, a proposito di inni di Forza Italia, non lo mandiamo in onda, state tranquilli, però c'è anche quello delle elezioni del 2008, vinte poi dalla coalizione di destra, che era per fortuna che Silvio... Meno male che Silvio c'è, ecco, un video che si trova ancora su YouTube e che se volete fare un viaggio nel populismo italiano, ecco, è proprio indicato. No, Banzo. Poi c'è anche l'inno dei giovani di Forza Italia, Azzurra Libertà. Noi avevamo preselezionato tutti questi brani, ma poi ci è mancato il cuore o il fegato, la scelta. Il fegato. A proposito però di Berlusconi che scrive in napoletano, ci andiamo ad ascoltare una canzone, Banzo, di Mariano Apicella insieme al Caimano, no? Esatto, testo di Berlusconi, e qui la domanda che rimarrà senza risposta è: quando ha imparato Berlusconi il napoletano? Io non ho nulla in contrario, probabilmente l'ha imparato perché era un estimatore della musica napoletana, ma il dubbio persiste. Andiamoci ad ascoltare meglio una canzone, vi promettiamo che questa è l'unica cosa di Berlusconi che vi mandiamo in onda, cioè scritta da lui, ecco, non interpretata come sentirete. Amore, amore mio, mon amour, o sai, non ti aspettavo proprio più, e te volevo scrivere una lettera, però aggiù pensate, meglio una canzone, perché no, teneva voglia pazzi di vedere, teneva voglia pazzi di vasa, vasa sta bocca bella che più bella non ci sta, vasa sta bocca dolce che più dolce non ci sta, e mocca tu stai ca, non saccia che ci fa, si ha già ridere o chiagnere, perché è una felicità che tu mo dici a me, che voglio bene voglio solo a te, e mocca tu stai ca, non saccia che ci fa, si dà già fa sentire che sta canzone quando tu passavo sto guaglione soltanto un anno fa. Scende piano piano, dicendo dolce dolce, amore, amore mio, mon amour. Pareva un'avventura e niente più, soltanto una stagione e niente più. Invece amore grande perché tu, tu vuoi l'amore vero e non te lascio più. E mocca tu stai qua, non sa che già fa, si ha già ridere o chiagnere perché è una felicità che tu mo dici a me, che voglio bene voglio solo a te. E mocca tu stai qua, non sa che già fa, si dà già fa sentire questa canzone quando tu passava sto guaglione soltanto un anno fa. Scende piano piano, discende dolce dolce, amore, amore mio, mon amour. Si ha già ridere o chiagnere perché te voglio bene, voglio solo a te. E mocca tu stai qua, non sa che già fa, si dà già fa sentire questa canzone quando tu passavo sto guaglione soltanto un anno fa. Discende piano piano, discende dolce dolce, amore, amore mio, mon amour. E vabbè, questo insomma avete sentito una canzone per introdurre il nostro nuovo ospite che forse non ha sentito la canzone, glielo diciamo noi. Mariano Apicella insieme a Silvio Berlusconi, beh, il testo anzi meglio dire di Silvio Berlusconi, Meglio una canzone. Con questa canzone vi presentiamo Emanuele Felice, che è stato spesso nostro ospite, storico dell'economia, saggista, professore all'Università Yulm. Emanuele, Lele, bentornato a Zibaldone. Grazie, ben rivisti e ben ritrovati a voi. Ascolta, un piacere averti con noi anche in questa occasione, una puntata che è dedicata appunto a vita, morte e miracoli del Caimano. Insomma, c'è tanto da dire su Berlusconi, ne abbiamo parlato anche prima appunto con Ramon Mantovani, ma la prima domanda un po' così a bruciapelo che ti vorremmo fare è ma con Berlusconi si viveva meglio? Il punto è proprio questo. Contrariamente alla narrativa berlusconiana, l'Italia durante i suoi anni, specie durante gli anni in cui lui era premier e anche per causa sua, è diventato un paese più povero, più arretrato rispetto agli altri paesi dell'Europa, in cui le condizioni di vita non sono migliorate sia dal punto di vista dell'economia, sia dal punto di vista dei diritti degli italiani. Cioè l'Italia è un paese peggiore rispetto a 20-30 anni fa, no? Berlusconi ha contribuito a peggiorare l'Italia e soprattutto negli anni in cui lui era premier si è avuto questo arretramento dell'Italia rispetto agli altri paesi avanzati. Questo è molto chiaro e sono molto d'accordo con te personalmente. La mia domanda però era un po', diciamo un po' così, un po' guascona, perché con Berlusconi si viveva meglio, era un pochino, sai, quel discorso in Spagna si fa con Franco se stava mejor, no? Perché come dire, avevi un nemico con cui diciamo ti potevi affrontare. Adesso c'è la Meloni, è vero, c'è stato Salvini, però ecco, non si guarda forse con un po' di nostalgia agli anni del berlusconismo anche da sinistra in un certo senso? Ma io ho l'impressione che politicamente su questo Berlusconi fosse già al tramonto, fosse già sconfitto, quindi il berlusconismo politico è già passato, è già alle nostre spalle. Noi da un pezzo che ci confrontiamo politicamente con un mondo post-berlusconiano, dai 5 Stelle a Salvini a Meloni, lo stesso Renzi, in cui Berlusconi ha avuto ancora un'influenza, per esempio ha avuto un'influenza nel far cadere Draghi, nel sostenere Meloni, però era essenzialmente un quadro post-berlusconiano, se consideriamo il ruolo maggiore che Berlusconi ha avuto negli anni 90 e 2000 soprattutto. Sì. Ascolta, hai nominato alcuni dei protagonisti della storia italiana più recente, Renzi, insomma i 5 Stelle, insomma Grillo, insomma la creatura di Grillo, ma sono tutti figli del berlusconismo? Sei d'accordo con questa affermazione? Secondo me sì, secondo me anche Grillo, anche i 5 Stelle. Cioè Berlusconi è stato un grande vincitore sul piano culturale, in senso gramsciano, per certi aspetti è stato l'anti-Gramsci, al punto che finanche i suoi oppositori più duri, più ostili, come Beppe Grillo, sono stati plasmati dal mondo, dalla cultura berlusconiana. Beppe Grillo è un comico, fondato un partito che si chiama i 5 Stelle, per non dire di come Renzi, stato influenzato da Berlusconi. Quindi sì, da quel punto di vista Berlusconi ha veramente creato un'epoca, perché ha vinto una battaglia culturale, favorito dallo spirito dei tempi. Però questo è un fatto. Chi si è salvato, diciamo, da quest'ondata berlusconiana dal punto di vista anche culturale, dei costumi, dello stile politico, della comunicazione, e chi, diciamo, perché molti ovviamente ne sono rimasti fuori ma sono stati sconfitti, c'è qualcuno secondo te che invece in questo trentennio o almeno nel ventennio berlusconiano, anche appunto nei 10 anni ultimi, quando eravamo già un po' nel post-berlusconismo dopo il 2011, invece, come dire, insomma, ha mostrato altre caratteristiche e ne è uscito, se non vincente, almeno insomma ha salvato il salvabile? Ma secondo me è così distinto. La prima persona che mi viene in mente è Prodi, è Romano Prodi, una figura come la sua che sicuramente è molto lontana dai modi berlusconiani, è autorevole, ha vinto e tutt'oggi rappresenta, anzi oggi ci sono i funerali della moglie di Prodi, insomma voglio anche mandare un messaggio a questa grande figura che ha rappresentato anche culturalmente un'alternativa a Berlusconi e pare che ne sia uscita molto bene, per dire, quindi sì, sicuramente sì. Ascolta, prima ne parlavamo, ecco, in questo momento scusa Steven, prego. In questo momento Prodi, diciamo, non è una figura del panorama politico attuale, ecco, non è più sceso in campo, per usare termini berlusconiani. C'è all'orizzonte qualcun altro che potrebbe, ecco, salvare il salvabile come ha fatto Prodi, secondo il tuo punto di vista, nello scenario attuale? Beh, dovrebbe essere più giovane per stare in campo. Troviamo non persone dell'età di Berlusconi, perché ovviamente dobbiamo scendere a una, diciamo, generazione più giovane che comunque è stata plasmata dall'epoca di Berlusconi, non c'è dubbio. Prodi viene da un'altra epoca, non lo so, mi viene in mente Lichtenstein, però ripeto, è un altro discorso rispetto a Berlusconi, certo, che appartiene a un'altra era. Certo, infatti su questo Lele nominavi Prodi con ragione, e prima ne parlavamo un po' anche con Ramon Mantovani, ossia la difficoltà per la sinistra di, diciamo, tutto quello che è il mondo che è stato rappresentato dal concetto di anti-berlusconismo, diciamo riuscire a vincere il berlusconismo, non solo elettoralmente ma anche culturalmente. Cosa sono stati dal tuo punto di vista gli errori, le incapacità della sinistra dal 93-94 in avanti per appunto, insomma, riuscire non solo a confrontarsi con Berlusconi ma riuscire davvero a sconfiggere quel modello di società, quel modello di fare politica che portava avanti con successo Berlusconi? È una bella domanda. Io penso che Berlusconi negli anni 90 e 2000, come accennavo, sia stato favorito dallo spirito dei tempi, che era l'individualismo mercatista o neoliberale, se vogliamo. Il problema della sinistra è che si è trovato a fronteggiare Berlusconi in questo periodo in cui lo spirito dei tempi pervadeva anche lei. E penso in particolare alla classe dirigente dei DS, D'Alema. D'Alema stesso parlava di rivoluzione liberale quando era premier. Cioè, quando D'Alema era premier parlava di rivoluzione liberale, stessa cosa di Berlusconi. E quindi il problema di fondo è quello, cioè la sinistra ha perso una battaglia culturale, perché la battaglia culturale a livello mondiale si giocava su un terreno favorevole a Berlusconi, tant'è vero che anche la sinistra, non solo in Italia, ne è stata fortemente pervasa. Oggi il quadro è molto diverso, secondo me. Oggi noi sappiamo che la globalizzazione neoliberale che mette d'accordo tutti è un'illusione, ci sono enormi problemi, dalle disuguaglianze all'ambiente, alla democrazia, al rapporto tra tecnologia e diritti, alla guerra mondiale, al rischio della guerra mondiale, ovviamente. E quindi sono temi enormi che viviamo in un contesto molto diverso, innanzitutto sul piano culturale, quindi penso che ci siano gli strumenti per affrontare un discorso sui fondamentali molto diverso da come è stato affrontato nell'epoca d'oro in cui Berlusconi ha dominato l'Italia. È anche, diciamo, legato secondo te a quell'epoca, appunto, gli anni 90 erano gli anni dell'ottimismo dopo la fine della guerra fredda, no? Si pensava appunto a un mondo di progresso, di maggiore benestare per quanto nell'ambito del modello neolib, ora siamo in tutt'altro momento, cioè Berlusconi è stato facilitato, pensiamo, no, da questo. Se ci pensiamo, sono stati gli anni dell'ottimismo fino alla crisi del 2008, che in Italia ha avuto il culmine con la crisi del 2010-2011, che dopo quella crisi infatti Berlusconi è tramontato, è entrato in un declino da cui non si è ripreso. Però non è un caso, cioè la parabola di Berlusconi fino alla massima ascesa avviene proprio negli anni. Berlusconi governa l'Italia dal 2001 al 2006, che sono gli anni di massimo ottimismo neoliberale, e poi ancora dal 2008 quando rivince, poi subito dopo arriva la crisi e Berlusconi cade proprio per le difficoltà che ha ad affrontare la crisi dei mutui in, certo, in Italia conseguente a quella crisi, al fallimento di quel modello. Facciamo una piccola. Quindi, se mi permetti una battuta, possiamo dire che Berlusconi ha vinto perché in senso hegeliano ha incarnato lo spirito, poi ovviamente dopo lo spirito si è spostato altrove. Sì, penso proprio di sì. A proposito prego Lele. No, sì, per certi aspetti sì, lui questo spirito incarnato, interpretato, e il dramma dell'Italia è che questo spirito a un certo punto lui ne ha fatto il tratto nazionale anche all'estero, nella interpretazione che ne dava Berlusconi, che in sostanza gli interessi miei personali prima dell'etica pubblica. Facciamo una piccola pausa musicale e poi rientriamo insieme a te a proposito appunto di spirito dei tempi. Il paradiso su Rete 4 è il titolo di questo brano di Diva, poi rientriamo insieme a te. Giovani felici dal teatro Petruzzelli, sorrisi radiali tengono le impalcature per le cotonature delle chiome fertili di maggio. Il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su Rete 4. Il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su Rete 4. Tu dici Joe Taxi, io Bettino Craxi. I commessi sciamano dai Benetton di Londra al Heaven. Sapevo che uscivi con un cantautore con la chitarra, che al terzo disco si fa crescere la barba. Il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su Rete 4. fiction riformista, a tirare le 100 lire davanti all'hotel Raphael. Il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su Rete 4. Il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su Rete 4. Il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su Rete 4. Il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su Rete 4. Viva il paradiso su Rete 4. Banzo, lascio a te l'onere e l'onore di spiegare ai nostri ascoltatori o dire qualcosa su questo brano. Beh, è un brano che, come dicevo, non parla direttamente di Berlusconi, però descrive un immaginario che è stato creato anche attraverso le sue televisioni. Quindi abbiamo questo suono che è volutamente retro, diciamo synth pop anni 80, occhieggia, e appunto ci sono dei riferimenti a questo mondo dorato della TV commerciale. Non so cosa ci fosse il sabato notte su Rete 4, però insomma, diciamo che guardando anche uno stile musicale retro, appunto un immaginario come poteva essere quello della TV generalista che ci aveva venduto questo meraviglioso mondo di consumo. Poi non so se questa fosse l'intenzione dei Diva, Davide Golin, quando hanno scritto il brano, però è un'interpretazione mia. E torniamo insieme ad Emanuele Felice, che ci sta accompagnando in questa seconda parte di Zibaldone. Lele, secondo te qual è il lascito maggiore di Berlusconi in senso negativo? Ovviamente stiamo parlando, se c'è qualcosa di positivo dillo pure. Ma in senso negativo, la distruzione dell'etica pubblica, l'aver mostrato che le istituzioni di un paese importante come l'Italia, che la Repubblica Italiana, potessero essere calpestate, utilizzate in maniera personale, nel modo più assoluto, in nome del potere e dei soldi. Il Parlamento che vota Rubi Rubacuori, nipote di Mubarak, ma le diverse leggi a persona. In questi giorni, nelle celebrazioni che si sono fatte su Berlusconi, è stato ricordato che nonostante processato molte volte, sia stato condannato solo una volta. Ma Berlusconi è stato condannato solo una volta perché si faceva le leggi a persona. Eh certo. Tra prescrizione, cambiamento delle leggi, cioè questo è il punto. E quello positivo, per esempio, qualche cosina, per esempio con il suo governo c'è stata una riforma dell'università che, introducendo l'abilitazione nazionale, secondo me ha avuto degli aspetti buoni, perché ha tagliato un pochino le code pessime, negative, che facevano carriera solo per affiliazione personale. quindi qualche cosa positiva, ma si trova in tutti, non ci mancherebbe. Ascolta, l'altra questione è, io credo interessante riflettere ora, diciamo che Berlusconi è definitivamente scomparso, non solo politicamente, è quanto ci metterà l'Italia a superare quello che ha rappresentato il berlusconismo, e mi riferisco non solo al movimento politico Forza Italia, non solo a Berlusconi l'uomo politico, ma appunto l'egemonia culturale del berlusconismo, come noi la intendiamo. Ma questo dipende anche appunto dallo spirito dei tempi. Oggi, di fronte alla crisi ambientale, al rischio della guerra mondiale, il clima culturale potrebbe cambiare in fretta, come è cambiato tra il 42 e il 45, insomma, perché per ragioni esterne all'Italia, come accade, come è normale che accada. Però Berlusconi ha anche lasciato un assetto politico molto forte, che non so quando riusciremo a superare, cioè l'estrema destra al governo. L'ultimo atto politico significativo di Berlusconi è stato quello di sfilarsi dal sostegno a Draghi, sostenendo anche una rottura importante in Forza Italia, con figure molto di rilievo come Carfagna, Gelmini, che sono uscite da Forza Italia. Sfilarsi dal sostegno a Draghi per andare al voto con Giorgia Meloni, legittimando un governo dell'estrema destra e un'alleanza fra i sedicenti moderati e la destra più estrema, e in cui la destra più estrema è maggioritaria peraltro, che oggi rischia di riproporsi in Spagna, in Europa. E questo è un lascito di Berlusconi. Berlusconi è stato il primo in Occidente ad aprire a questa alleanza, sin da prima della sua discesa in campo, quando disse che a Roma fra Rutelli e Fini nel 93 avrebbe scelto senza dubbio Fini, che era ancora MSI. Eh certo, sì, questo è un lascito purtroppo mondiale, sì. E oggi all'ordine del giorno in Europa. Sì, sì. E infatti la sua ultima intervista rilasciata al giornale, insomma, pochi giorni fa, 7, 10, 15 giorni fa, lui apriva, diceva: il tempo anche in Europa delle grandi coalizioni popolari socialisti è finito, bisogna governare anche la Commissione, appunto, con un'alleanza a destra tra i popolari e i conservatori riformisti. Esatto, non è un caso peraltro che Orban, l'unico capo di Stato di rilievo, era al suo funerale, probabilmente sarebbe venuto anche Putin se avesse potuto. Certo. Però in Europa oggi l'unico premier oltre a Meloni che incarna questa alleanza è Orban. Sì, sì. Ed era lì. Ascolta, prima toccavamo la questione dello spirito dei tempi, dell'ottimismo. Mi sembra un tema molto interessante, anche perché Berlusconi, quando si presentò agli italiani e mantenne questo discorso vita natural durante, lui si presentò nel 94 come chi voleva fare la rivoluzione liberale. Tu prima dicevi anche che appunto D'Alema in fin dei conti finì in questa stessa retorica, no? Nella seconda metà degli anni 90, primi 2000. Ecco, Berlusconi però promise una rivoluzione liberale, però in realtà non riuscì mai a realizzarla. Non so se la volle realizzare o no, però ecco, sicuramente non riuscì a realizzarla. Sicuramente non riuscì a realizzarla, probabilmente non voleva realizzarla, perché Berlusconi ha sempre avuto era un pubblicitario, un piazzista, come è stato scritto, ma era così, aveva una forte propensione all'immagine, la sostanza era molto diversa, cioè la sostanza del capitalismo di Berlusconi, un capitalismo molto corporativo. Berlusconi ha difeso le corporazioni, che poi Bersani ha attaccato con le riforme liberali di Bersani. Corporativo è legato al sistema politico e al potere politico in maniera molto forte, anche con Alitalia, per esempio. E quindi in realtà Berlusconi aveva questa retorica, ma non si ricorda forse una riforma di liberalizzazione di Berlusconi, di riduzione delle tasse, a parte quelle sulla rendita, cioè sulla casa, sulle persone che muoiono, quindi sull'eredità, che non sono propriamente aspetti liberali, perché non sono tasse sulla impresa, sul rischio di impresa, sono tasse sulla sulla rendita, appunto. E quindi non c'è una vera, c'è lo spirito, sì, sì, lui insiste molto sul piano culturale, anche su un'idea fatta come me, arricchitevi, che ha anche una sua importanza in questa dimensione dell'idea liberale, c'è anche la dimensione culturale, bisogna arricchirsi, che però l'arricchitevi di Berlusconi è un arricchitevi dicendo arricchitevi facendovi i fatti vostri anche a spese della legge. Certo. Certo. Questo lui dice. Su questo, guarda, ti volevo fare un'ultima domanda, poi passo magari la parola per un'altra, l'ultimissima poi domanda al Banzo. E, c'è una tesi che forse è la più interessante su quello che è stato il berlusconismo, di uno storico, Giovanni Orsina, un libro proprio intitolato Il berlusconismo, uscito nel 2013 per Marsilio. E Orsina, tra le molte cose interessanti che dice, spiega, insomma, la prima repubblica era una repubblica segnata dalla iperpolitica, dove i politici, insomma, non solo la politica si considerava una cosa seria, c'era il mal chiamato politichese, ma spiegavano anche o cercavano di educare la popolazione, la cittadinanza, migliorarla, mentre Berlusconi ha, diciamo, ha capovolto il tutto e quindi è venuto a dire no, voi siete bravi e belli così come siete, dovete essere orgogliosi dei vostri difetti e io sono quello che proprio vi rappresenta e è diventato il modello degli italiani, ossia una proposta ipopolitica. Ecco, tu sei d'accordo con questa tesi di Orsina? Sì, sono abbastanza d'accordo, aggiungendo che in realtà Berlusconi forse, immagino, non pensava così di peggiorare gli italiani, cioè lui probabilmente era effettivamente convinto che quello era un buon modo di vivere, facendosi i fatti propri rispetto alle leggi, cioè aveva uno spirito anarcoide, profondamente narcoide, e che pensava quindi era un po' una distorsione dell'idea di Smith, però lui ha una grande, cioè lui, se guardiamo i suoi riferimenti culturali che c'erano, non sono per esempio Hayek, non è il neoliberalismo complesso, lui va a Smith, cioè quest'idea dell'egoismo individuale che distorto, perché appunto fino al punto da violare le leggi, perché percepite ingiuste, ma ovviamente chiunque viola le leggi dice le leggi sono ingiuste, però è questa idea qui che facendo l'interesse personale è il modo migliore per fare gli interessi collettivi, è un'idea che non vuol dire necessariamente io vi rendo peggiori, voglio educare a essere peggiori, cioè, il mio bene è questo. Sì, sì. Banzo, una domanda al volo per chiudere l'intervista con Lele? Quindi, riagganciandomi al tuo ultimo discorso, possiamo dire che forse le politiche economiche di Berlusconi sono state in complesso fallimentari proprio perché mancava una visione sociale o globale, un'idea di società, e appunto tutto muoveva dall'individuo, quindi anche dall'interesse personale proprio del Berlusconi stesso? Ma io sarei più, cioè, in realtà c'è stata una narrazione di politiche economiche di Berlusconi, ma non ci sono state vere politiche economiche. Berlusconi ha difeso gli assetti corporativi e ha fatto un capitalismo di Stato, pensiamo ad Alitalia per esempio, ad altri casi. Quindi c'è stata una narrazione di politiche economiche, che è il meno tasse per tutti, fatevi i fatti vostri, i condoni, la quale è stata anche la narrazione è stata fallimentare perché ha indebolito l'etica pubblica del paese. È proprio così. Emanuele Felici, storico dell'economia, saggista, professore alla IULM, nostro caro amico, spesso ospite. Lele, grazie davvero di averci accompagnato. Grazie a voi, grazie. Andiamo con un altro brano, poi Banzo ce lo spiegherai tu. rimembri ancora il tempo in cui mortale suonavi in un complesso musicale. Mirava gli occhi in alto, ridenti e fuggitivi, mattone su mattone tu salivi. Gli studi tuoi leggiadri finisti squattrinato, ricordi un consigliere delegato. E nel 75 la grande intuizione, comprasti la prima tua televisione. Ed io con tutto il cuore ti voglio ringraziare, perché tu sei un modello da imitare. In questa nostra Italia in cui ognuno fa per tre, tu sei l'uomo che si è fatto da sé. Tu sei l'uomo che si è fatto da sé. Di un pretore ti vuole rovinare e prova la tua luce ad oscurare, ma tu mantieni duro in cima alla Tour Eiffel, nei cieli della Francia con la Seng. Rispondi da Cologno all'invasione inglese e da Milano al calcio piemontese. Investimenti, case, giornali, pubblicità, hai fatto anche del Milan un gran Milan. Ed io con tutto il cuore ti voglio ringraziare, tu sei il mio modello da imitare. E questa nostra Italia repubblica non è, da quando Silvio Primo ha fatto re. Da quando Silvio Primo ha fatto re. Evviva Silvio Primo, nostro re. Silvio, rimembri sempre da dove sei venuto e i tuoi principi non dimenticare. Pensare in grande sempre, osare agire tu, diabolico ragazzo della via Gluck. Sua emittenza Silvio, geniale e sorridente, giovanissimo cavaliere del lavoro. Per te un grande avvenire, sei un assomiglia tutto, conquisterai del mondo lo scudetto. Ed io con tutto il cuore ti voglio ringraziare, tu sei il mio modello da imitare. Schioda la fisarmonica e vieni su da me, gullita la chitarra e siamo in tre. Schioda la fisarmonica, vieni su da me, gullita la chitarra e siamo in tre. Uè, Silvio, te sei gran, te fa grande anche a Milano, oggi noi siamo campioni, grazie Silvio Berlusconi. Uè, Silvio, te sei gran. Vabbè, Gerardo Carmine Gargiulo Banzo si chiama chi, l'interprete di questo brano, che insomma vabbè, forse è meglio commentare, non so che ne dici. Ma no, ma perché un testo così, diciamo, neutro? Esplicito, no, neutro sì, se vogliamo dirlo ironicamente. Comunque, per dire, vogliamo commentarlo, in uno dei video su YouTube che ripropone la canzone i commenti sono chiusi, non so cosa si potrebbe dire. Allora, Gerardo Carmine Gargiulo ha una carriera discografica abbastanza ellittica, nel senso che ha pubblicato solo due dischi, LP, come si diceva una volta, nell'81 e nel 2012. Beh, per fortuna. Poi ha pubblicato una manciata di singoli, fra i quali Una gita sul Po, che è il suo più famoso dell'81, e questa A Silvio è del 1988. Ecco, ah, ma davvero? È prima che entrasse in politica? Esatto, sì sì, cioè, nel senso, è una canzone, diciamo che un po' il dono della veggenza ce l'ha, perché praticamente descrive Berlusconi re d'Italia quando ancora solo imprenditore, e io riascoltandola almeno due o tre volte non ho ancora capito se ci è o ci fa, comunque, perché il panegirico è talmente sbaccato che viene da pensare che sia ironico, ma poi chissà chi lo sa. E ma, ascolta, per questo filone avevamo anche una canzone di Cristiano Malgioglio che però abbiamo lasciato fuori, i panegirici a Berlusconi, ecco. Sì, ci sarebbe stata anche, se vogliamo, menzione a Berlusconi in questo senso, forse più critica, una delle prime canzoni degli 883, no? Che diceva, no? Sei uno sfigato, era il titolo del brano, quando ancora Pezzali stava con Repetto, per capirsi, quindi primi anni 90, che diceva tu vuoi essere come Berlusconi, pieno di ragazze di milioni, una cosa qualcosa del genere, no? Era menzionato anche in quel brano. Ma in Sei uno sfigato però si prendeva anche in giro il personaggio perché sì, usava un cellulare gigantesco. Sì, qualcosa del genere. Cellulari del 92, queste cose. Madonna, Steven, mi gira la testa, questo salto nel tempo inatteso. Sì, guarda, non cadere, mantieniti fermo sulla tua sedia e andiamo ad ascoltarci il prossimo brano. Non diciamo cos'è, lo capiranno forse alcuni nostri ascoltatori più attempati. Quando il mondo si riaccende, dai, riaccenditi anche tu. C'è un amico che ti prende, che ti porta sempre su, alla formula speciale della tua felicità, ti regala un universo di allegria e serenità, è l'amico più sincero, più simpatico che c'è, alle cinque sempre con te, alle cinque sempre con te, ogni giorno ad ogni ora l'avventura entusiasmante, la perfidia di gioia, il campione del pulsante, tutte le più grandi star, grandi amori travolgenti, grandi sfide entusiasmanti. C'è un amico che ti aspetta e ti dà ciò che vuoi tu, un amico sempre nuovo, guarda avanti alla TV, è l'amico più sincero, più simpatico che c'è. Alle cinque, sempre con te. Alle cinque, sempre con te. Alle cinque, sempre con te. Banzo, non so che dire dopo aver ascoltato questo brano, sono un attimo basito. Siamo comunque tornati ancora un po' più indietro negli anni Ottanta con questo, questo breve brano che in realtà era una sigla televisiva. È stata colpa del nostro Fausto De Salvia, che ringrazio per la selezione musicale, che spesso mi tira fuori cose delle quali ignoravo l'esistenza proprio a un livello più profondo, non pensavo potessero esistere, intendo dire. Questa era la sigla di chiusura dei programmi di Canale 5 del 1981, perché all'inizio non avevano una programmazione che coprisse le 24 ore, quindi immagino prima del monoscopio, questa è una cosa che posso ricordare solo le persone più attempate, è una sigla di Augusto Martelli, che insomma fu anche compagno di Mina, una lunga carriera musicale. Per ciò che riguarda Berlusconi possiamo dire che è stato arrangiatore dell'inno di Forza Italia, che però avevamo detto era stato scritto da Renato Serio, e comunque il suo livello di coinvolgimento con la televisione commerciale degli esordi non si esaurisce qui, perché è stato anche autore, scopro adesso, della sigla di Hazard, per chi ricorda questo vecchissimo telefilm. Ma non ci credo. Sono cose sconvolgenti, Steven. A me da bambino piaceva tantissimo Hazard. Piaceva molto. Poi Luke ha fatto quella sigla lì, davvero? Piaceva molti di noi, e io ho sempre sognato anch'io di entrare in macchina senza aprire lo sportello, però purtroppo non ho mai potuto farlo. Vabbè, ascolta, andiamo avanti. Rimaniamo nel mondo non della televisione, del cinema. In questo caso non si tratta, il brano che vi proponiamo, di qualcosa scritto da Berlusconi, andato in onda sulle sue televisioni, però sì che ha a che fare con il cinema, ha a che fare anche con il Caimano. Thank you. Un frammento della colonna sonora del Caimano, un film di Nanni Moretti, immagino che molti lo conoscano, l'abbiano visto. Era, se non sbaglio, Banzo il 2007, giù di lì, vero? 2006, credo. 2006. Comunque, insomma, l'ultimo governo Prodi. Franco Piersanti, l'autore di questo... di questa colonna sonora del brano che ci siamo ascoltati, il titolo è Ascesa, un film insomma che rappresenta molto bene il ventennio berlusconiano, no? Ah, ventennio, mi hai fatto pensare ad altre cose. comunque devo dire che è stato veramente un doppio carpiato passare da Augusto Martelli a Franco sì. Piersanti, non per i personaggi in sé ma proprio per i brani proposti. Piersanti comunque ha composto musiche anche per Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Paolo Virzì, oltre ad altri film di Nanni Moretti, tra cui molti, quelli classici degli anni 70-80. E comunque, ecco, questo Steven, ci sono troppe emozioni in questa puntata, perché veramente non smettiamo di saltellare da un estremo all'altro, e credo che stiamo per farlo anche adesso, se me lo confermi. Eh sì, rimaniamo più o meno in quegli anni, andiamo avanti di 2-3 anni, il momento insomma dell'ultimo governo Berlusconi, di Rubi Rubacuori, insomma quello che ha rappresentato molto bene in un altro film Paolo Sorrentino con loro, no? Andiamo ad ascoltarci questo brano. Africa, bunga bunga con flere, bunga bunga con flere, se non sta dentro vai in galera, per colpa dell'Africa. E non importa chi tu sia, non importa che lavoro tu faccia, l'importante è affrontare la crisi con i sorrisi. E allora facciamo tutti una grande festa, io, tu, Lele, Fede, Ruby, ma soprattutto tantissima ficca. Bunga bunga con Lele, bunga bunga con Fede, se non sta dentro vai in galera, è colpa della ficca. Bunga bunga con Lele, bunga bunga con Fede, se non sta dentro vai in galera, è colpa della ficca. Banzo, ma tu credi che alla fin fine di Berlusconi, quando tra 10-15 anni parleremo di lui, lo ricorderemo, ci ricorderemo soprattutto dei Bunga Bunga? Allora, è una domanda difficile, Steven, e questo dimostra anche che non scriviamo prima cosa dire. Allora, no, è veramente difficile, seriamente, perché credo che questa sia... L'elemento del Bunga Bunga forse è ciò che rimarrà più di Berlusconi all'estero. Sì. Perché non essendo, diciamo, direttamente danneggiati dalle sue politiche, o comunque non direttamente interessati, ecco, se vogliamo usare un termine più neutro, diciamo che tendono a vedere del personaggio gli aspetti più folcloristici. E che erano molti, Che erano moltissimi, e evidentemente in questo cumulo di aspetti folcloristici, per usare un termine gentile, il Bunga Bunga, diciamo che spiccava, e effettivamente Berlusconi, credo che fuori dall'Italia per molti sia questa cosa qui, infatti anche in Italia, anche perché non hanno avuto interesse a conoscerlo, non hanno avuto la necessità forse, e comunque in Italia vedere che la stampa estera sottolineava alcune delle ombre di Berlusconi ha suscitato dell'indignazione, proprio a dimostrazione del fatto che Berlusconi la sua battaglia culturale l'aveva già vinta 15 anni fa. Sì, sì. Sì, l'ha vinta da molto tempo, sì, molto sì, prima sì. della morte. Eh sì, comunque era un brano di Elio e le Storie Tese, tratto da un live a Parla con me, eravamo proprio nel 2010, era, diciamo, utilizzavano la melodia di una canzone, se non sbaglio, di Shakira, Banzo, no? Waka Waka, inno del mondiale sudafricano del 2010. Se mi permetti un brevissimo aneddoto personale, seguì i mondiali cercando di evitare disperatamente la canzone di Shakira, ci riuscì al punto che fui costretto ad ascoltarla per la prima volta solo per capire meglio la canzone di Elio. Ok, Banzo, è siamo... una cosa della quale sono orgoglioso. Bravo Banzo, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Zibaldone, vita, morte, miracoli del Caimano. Forse ci despedimos, ci salutiamo definitivamente con il Berlusca, chi lo sa, purtroppo rimarrà dentro di noi, credo, soprattutto per quelli della nostra generazione, ma insomma, chiudiamola qui. Ci salutiamo però, Banzo, con un ultimo brano, andiamo con i CSI, Male dirai, introducila tu. Sì, allora, è un brano contenuto in Noi non ci saremo, volume 2 del 2001, quindi la raccolta di ritagli, outtake un po' postume, diciamo, ma l'incisione risale al 94. Il brano è Maciste contro tutti dei CCCCP, un po' rifatto, riadattato, e ci sono dei riferimenti anti-berlusconiani, ma le dirai la Fininvest, ecco, viene detto nel testo della canzone, ed è incredibile pensare che questo testo lo abbia scritto Ferretti, che poi ha avuto un'evoluzione, ecco, politica molto sconcertante per alcuni, che non lo ha portato a votare direttamente Berlusconi, ma praticamente tutto il resto dei suoi alleati, fino alla famosa foto abbracciato da Giorgia Meloni, che è diventata quasi una base per meme. Eh sì, effettivamente così è. Insomma, dai, noi ci salutiamo con questa canzone e ci ritroviamo la prossima settimana. Niente di più, niente di meno, forse sì, quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, che alle 19:55 minuti diceva: Berlusconi convoca lo Stato Maggiore della Casa delle Libertà. Dice: se gli americani sono arrivati sulla Luna, e oltretutto così tanti anni fa, noi non possiamo essere da meno e saremo i primi ad atterrare sul sole. Tutti lo guardano sconcertato, preoccupati, dicono forse è impazzito. Berlusconi, vedendo lo sconcerto nei volti attorno a lui, li tranquillizza e dice: non vi preoccupate, per evitare di bruciarci atterreremo in piena notte. Banzo, Banzo, ci sentiamo la prossima settimana. Bye bye. Alla prossima, Steven. Voglio dormire a lungo e non sognare. Voglio dormire a lungo e riposare. Voglio dormire a lungo e non sognare. Voglio dormire a lungo e riposare. Maledico la fine West. Maledirai la fine West. Forma stato aziendale.